Eccoci qui di nuovo. Mi era rimasto da leggervi gli appunti che avevo preso praticamente su quella che è la pianura di Marte, che abbiamo detto è un'incavità che si trova tra il Monte di Venere e la pianura di Marte, il Monte di Marte superiore e il Monte di Marte inferiore. Praticamente questa pianura può essere sia alta che bassa e domina praticamente tutti i monti circostanti che ha. Per poter misurare quanto è profonda questa pianura, possiamo fare un tentativo, cioè loro consigliano di prendere una matita e praticamente appoggiarla lungo il secondo dito e farla scendere fino al polso, premendo leggermente con l'altra mano. Si può notare praticamente quanto sia profonda la pianura, cioè quanto questa va a incavarsi. Però facciamo attenzione al fatto che di non avere dei monti laterali molto carnosi, quindi molto accentuati, perché in quel caso non sarebbe la profondità della pianura di Marte, quanto piuttosto i monti circostanti ad essere molto alti. Benissimo. La mano, come avevo già detto, non è costituita solo da monti, che sono i monti più importanti, ma ci sono anche delle linee. Le linee fondamentali che sono riscontrabili sul palmo della mano sono tre. Sono quella della vita, della testa e del cuore. Le linee devono essere ben formate ed anche il colore però ha un ascendente sulla loro caratteristica. Le linee possono essere di diversi colori, tra cui rosso, oppure può essere una linea abbastanza chiara, oppure può essere nera. Le linee di colore rosso praticamente rappresentano un temperamento molto tempestoso. La linea chiara invece è mancanza di energia solitamente, mentre una linea scura è un temperamento molto vendicativo. L'ampiezza poi delle linee stesse è indice di spreco di energia, così come la profondità invece è indice di sforzo. Una linea doppia invece rafforza l'attività fisiologica. Le linee poi vengono divise in 10 periodi di 7 anni ciascuno e le suddivisioni tendono ad essere più ampie praticamente nei primi periodi e più strette nei periodi invece in parti circostanti. Quindi avremo delle linee che si dividono in 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, diciamo che nelle linee molto lunghe arrivano a descrivere per lo più teoricamente 98 anni. E queste tendono, come abbiamo detto, ad essere più larghe, quindi nella prima parte. Una linea della vita molto corta è indice di declino e vigore e di salute in un periodo approssimativo che può allungarsi prima del raggiungimento di quella determinata età. La linea della testa invece rappresenta perché è praticamente la linea che va, cioè quella del cuore, quella che parte dal dito indice e va a finire fino al mignolo. Al di sotto c'è direttamente la linea della testa e poi quella che invece va a descrivere la zona del Monte di Venere si chiama linea della vita. La linea della testa, che è quella centrale che vedete all'interno del vostro palmo, va ad indicare, in maniera particolare l'intelligenza e la sua applicazione all'interno della vita. Disturbi mentali e diciamo cardiaci vengono inizialmente, diciamo, nella tradizione comune rapportate a queste due linee. Poi ci sono le linee del fato, della fortuna e della salute, che invece scendono perpendicolarmente in maniera verticale da quello che è il monte, da quello che è il dito medio, da quello anulare, da quello indice, e si descrivono appunto lungo i tratti della suddivisione in anni che abbiamo detto vanno a 7 per 7 alla volta. Io comincerei a parlarvi dello studio della linea della vita. La linea della vita praticamente si dirama tra il pollice e il dito di Giove e normalmente si estende al di sotto del monte di Giove. La linea della vita dovrebbe terminare al di sotto della base del pollice senza raggiungere o toccare la lascette, ossia la linea che cinge il polso. La lunghezza della linea della vita è molto importante poiché questa linea rappresenta il vigore fisico e la sua applicazione a tutti gli scopi di vita. Perciò determina la quantità di energia nervosa che può essere consumata in luogo della forza fisica. In contrapposizione alla credenza popolare, la linea della vita non delimita l'arco della vita di una persona. In indicazioni di questo tipo è più facile che siano presenti altrove sul palmo. La linea della vita non è neppure più importante delle altre linee fondamentali della testa e del cuore. Quindi questo vuol dire che la linea della vita non rappresenta più che altro la lunghezza, quanto vivrà una persona, più che altro la vitalità generale che può indebolirsi e interrompersi durante l'arco della vita. Quindi quando la linea è debole ci sarà una fase di spossatezza e recupero dello stato di buona salute che però sarà lento.